E benvenuti a questo appuntamento. Deve essere successo. Ah, ecco qua. Praticamente era rimasto chiuso il microfono. Oh, ma che intelligenza micidiale, va. Insomma, avete sentito in realtà un momento di vuoto. Abbiamo lasciato il microfono chiuso per sbaglio. Ale, siamo proprio all'altezza. Ci complimentiamo sempre con noi perché, insomma, siamo veramente all'altezza. Comunque, abbiamo espresso la nostra solidarietà a Francesco Cirillo, per quello che gli è accaduto, ovvero è stato condannato dal Tribunale di Scalea per aver, secondo il Tribunale, diffamato sui giornali, lui scrive su Mezzo Euro, un esponente, diciamo, di un'azienda privata, un presidente di una società privata. Infatti Cirillo rivelava in una sua inchiesta la spartizione di 10 miliardi di vecchie lire, finanziamenti europei giunti per il turismo e spariti fra tecnici e amici, con una restituzione di 3 miliardi non spesi all'Europa. Tutto suffragato da prove, ma questo non ha impedito al Tribunale di emettere la condanna contro Francesco Cirillo. Ora Cirillo farà appello, ma dice di avere poche speranze. Noi ovviamente facciamo da questi microfoni, se non l'avete sentito prima lo ripetiamo ora, i nostri migliori auguri a Cirillo e soprattutto esprimiamo complicità e vicinanza all'amico fratello e compagno Francesco Cirillo. Ma ora parliamo di quello che è accaduto a Sibari, dove il Crati esonda. Ma prima di tutto questo volevamo ricordarvi che noi non vogliamo fare una pubblicità, una radio, come dire, un programma per fare in quest'ora concorrenza sleale ad altri programmi. Ce ne guarderemo bene, infatti fra poco finiremo, non vi preoccupate, poi vi diremo che cosa andare ad ascoltare, se volete, ovviamente. No, no, non esprimiamo comandi, insomma, ci mancherebbe altro. Comunque, che cosa è successo a Crati e a...